siamo alla vigilia di un appuntamento importante. Sta per essere approvato un piano multiannuale della durata di 5 anni, chiamato il programma dell'AIA, per migliorare la capacità comune dell'Unione degli Stati membri nel garantire i diritti fondamentali e una serie di questioni riguardanti la giustizia, la sicurezza e la libertà. È un punto importante perché per 5 anni l'Unione Europea si impegna a fare determinate cose in campi che riguardano molto da vicino il lavoro di Amnesty, e la preoccupazione che ha spinto la nostra organizzazione a lanciare questa lettera aperta è che c'è un forte squilibrio tra le preoccupazioni dell'Unione Europea per uno di questi temi, cioè la sicurezza, e le garanzie che riguardano per l'appunto gli altri due, ovvero la giustizia e la libertà. Come dire che un'Unione Europea che oggi abbiamo di fronte sembra molto più preoccupata di garantire la sicurezza interna piuttosto che di garantire i diritti fondamentali. Questo lo si vede in particolare in uno degli aspetti più cruciali di questo piano o programma dell'AIA, ed è quello in cui in buona sostanza si confondono temi quali l'asilo politico e l'immigrazione, e soprattutto si vuole suggerire che c'è bisogno di inserire il tema dell'immigrazione nelle strategie contro il terrorismo, il che è un qualcosa che Amnesty giudica assolutamente inadeguato e non degno di una Unione Europea che vuole avere a cuore il rispetto dei diritti umani.